Caici, attenzione Caici, sono Eugenio. Su PD, cambio. Ora. Rosa microfono, cambio. Chi è? Chi sei, Giovanni? Sono Carlo. Oggi sì, perché c'è meno QRM. Mi arrivi Santiago 7, la radio è sempre bassa, ma ti tiro fuori oggi. E se ti cambi l'antenna vedrai che da dove sei tu, Platamona, già arrivi bene qua, capito? Ti devi mettere un'antenna verticale però, perché localmente, diciamo, tutti in zona siamo con le verticali. Tu stai uscendo con un segnale diverso in orizzontale, avevo anche io lo stesso problema tuo tempo fa. Girellando così sui canali, ho visto la portante prima, però non ero riuscito a capire chi era. Adesso però, come vi ho parlato, già sei più chiaro di ieri, c'è meno disturbo di QRM oggi. Si prova a vedere da un'altra parte, come adesso sei in casa, in postazione fissa o in barra mobile. Ok, va bene, già sono in ascolto, io quando vuoi chiama. Bene. Giovanni, se sei tu, ti sentivo meglio prima, Farò un altro passaggio. No, il segnale è aumentato, sei passato a Santiago 8, però la radio non si capisce, c'è un rumore di fondo, non so se hai attaccato qualcosa oppure il microfono. Parli col microfono, si sente un fruscio molto forte che ti copre la voce. C'è anche un fischio lungo, si è sentito. Ok, abbassa un pochettino ancora. Sei salito di segnale anche di radio, però ti accompagna questo disturbo, non so se il microfono oppure se è attaccato qualcosa, capito? Sono sempre qua nella stessa postazione a casa, non lo so, ti sento meglio di radio comunque adesso di prima. Sì, hai il disturbo come schiacci la portante, parli, ti accompagna questo fruscio lungo, capito? C'è sempre, Giovanni, c'è sempre il disturbo. Disturbo proprio, ti copre la voce, capito? Perché il segnale rispetto al prima anche ha aumentato, capito? Però c'è questo disturbo e non fa capire bene, sempre. Adesso ti ho sentito, è un po' abbassato anche il segnale, però eri più chiaro. Segnale più basso, però diciamo meno rumori di sottofondo, capito? Quindi comprensibile. Sì, decisamente sì, rispetto al prima adesso meglio. Come ti sto arrivando adesso? Capito. Vediamo se c'è qualcuno sul 10 che vuole entrare. Avanti. Ciao Carlo, buonasera, ben sentito. Buonasera Natali, come va? E come va? Come sempre. Già va bene, là. Io già a casa, ho fatto il turno di mattina e quindi un po' a riposo. Solo che mi ha preso un po' di raffreddore, come esci presto la mattina, maledizione, 0 gradi. sbalzi di temperatura e quindi sono un po' intasato. E io sono sempre raffreddato, mamma mia. Convergere verso il presidente degli italiani. Deve essere com'è e come frega. Ero con Giovanni, che lui modula da Plattamona, però mi ha detto che era in macchina, stava facendo qualche prova e non so se lo sentivi. No, negativo, negativo Carlo, non lo sentivo, sentivo solo a te che stavi parlando a lui, me l'ho immaginata che era lui. Giova, lo senti Natalino tu? Abbiamo detto che già ti sente Natali comunque, non come le altre volte, però ha detto che ti sente abbastanza bene. Adesso, come ha fatto qualche prova, Giovanni esce un pochettino meglio, Santiago 7, la radio, diciamo una radio 3, però abbastanza comprensibile. E chissà cosa c'ha l'antenna, magari o è un'antenna che c'ha stazionaria, non lo so. So che la deve cambiare perché quella che c'ha nella postazione fissa mi sa che è un dipolo, però è montato in orizzontale, quindi il segnale non arriva forte, però mi sa che in macchina adesso è Giovanni, confermami Giovanni che sei in macchina. Giovanni, ti ho sentito, avanti, chi è Mario? Non lo so, io non ho fatto niente, sto uscendo sempre uguale, non ho toccato niente. Cambia che sei Santiago 1, Carlo sta andando benissimo, ciao, buonasera a tutti. Prova a cambiare Mario, perché tu mi arrivi bene come segnale, radio bella lo stesso, però io non ho fatto niente, gli altri mi sentono bene, quindi non so se è un problema della tua radio. Adesso anche Claudio mi ha confermato che sto uscendo bene. Ciao Claudio, buonasera, c'è Natalino e Mario. Sì, no, sono andato solo a rispondere a Mario, Giovanni non lo sento, non arriva qua, sono Natalino, ciao, buonasera. Segnale tuo, non toccare niente, ti stai andando bene, il problema è il suo, sicuramente. Ti mando in ascolto perché sto trasmettendo un'altra banda, ok, ci sentiamo dopo, ciao Carlo, riprendi. Ok, grazie Claudio, vai Natali. Ciao Cla, ben sentito. Purtroppo c'è la televisione alta qua, mi viene male a ascoltarvi, rimango in quel rixra. Natali, ci sentiamo magari in condizioni migliori allora. Va bene, adesso aspetto se rientra Mario e così mi dice se gli arrivo sempre bene oppure c'è qualche problema, ma penso che sia lui. È suo il problema, caro, non ti preoccupare, qua sei 9.60 come sempre. Allora è tutto a posto, grazie Cla. Se non puoi ti fare le serie mentali, quindi ti avviso che tu sei tutto a posto. Infatti, hai fatto bene. Guarda, ci sei ancora tu. così finché non diciamo metti un'antenna in posizione migliore, perché di segnale vai abbastanza bene, capito, e la radio purtroppo basta, però oggi ti tiro fuori perché c'è meno disturbi diciamo sull'etere. Radio stai usando, Giova? Adesso è tornato il disturbo di prima, Giovanni, come hai schiacciato la portante, insieme alla voce è partito il disturbo che ti copre. Sì, adesso vai bene, è sempre bassa la radio, ma ti capisco, non hai più il disturbo. Dimmi, Mario, com'è adesso? Cosa dirti, perché da qua ho lasciato tutto com'era, Mario, e non ho toccato assolutamente, stessa radio, stesso microfono, stessa antenna, non ci sono più salito dall'ultima volta che ci siamo sentiti, è sempre rimasto così. Però prima Claudio mi ha detto che a lui gli arrivo sempre 9 più 60 addirittura, va bene che a Sassari, però non dovrei avere niente io. Siamo qua in chiacchiera sul 10, se vuoi rientrare poi già siamo qua. Giovanni, prova a fare un passaggio, come hai risposto a Mario uscivi un pochettino meglio, prova a fare un altro passaggio così ti sento meglio. Thank you. Giova, sempre il disturbo c'hai. Stai facendo delle prove. Sì, però a volte fai col segnale e vai un po' meglio. Adesso c'è il disturbo. Mario. Segnale che come radio mi arrivi molto meglio rispetto a prima. Adesso arrivi Santiago 9, radio 5 qua, benissimo, io ti sento molto bene. Sì, esatto, sempre quello là, sempre stessi watt, stessa antenna e non ho toccato niente qua. Ancora no, perché devo fare i collegamenti e la persona che li sa fare purtroppo diciamo è mezzo incasinato con la questione Covid, non lui personalmente, però sta aiutando delle persone, per cui adesso non ha tempo. Ho tutto pronto, ho preso lo spinotto, però ancora non l'ho provato. Giovanni evidentemente sta provando, riprovando, perché a volte entra, si sente diciamo basso sempre di radio, però più chiaro degli altri giorni, e poi tocca qualcosa e diciamo la radio scompare quasi perché c'è un disturbo, non so se dipenda dal microfono oppure se collega qualcosa, amplifica e quindi gli va un po' il microfono in difficoltà. Sentiamo alle prossime, avanti, c'era qualcuno sotto che voleva entrare, avanti sul canale 10. Sì, cambio. Buonasera, California da Fertilia, io sono Carlo e modulo da Sassari, come ti arrivo se mi dai un controllino? Benemera, la radio com'è California? Capito, va bene, sì, perché avevo fatto alcune prove ad Alghero e ci arrivavo bene anche qualche settimana fa, ho parlato con Carlo e gli arrivavo sempre Santiago 8-9, anche con Mirko qualche volta ho parlato, ad Alghero dovrei arrivarci bene. Benissimo, benissimo. Fertilia il paesino oppure nelle vicinanze là? Ho capito, benemera, benemera. E vuol dire che già è aperta tutta quella zona da me, anche se l'antenna ce l'ho direzionata verso nord, verso Porto Torres e quella zona là. Il segnale qua mi arrivi Santiago 7 oscilla un pochettino anche più di 7 e la radio è radio 5 mi arrivi chiaramente, la radio è buona. Beh, va benissimo, io ti sento bene, ti sento molto bene, se sei in barra mobile sono contento che insomma riesci anche a sentirmi in quelle coordinate lì di Fertilia. Ci sono quasi tutti i giorni là vicino, anche stamattina perché lavoro da quelle parti. Sì, sempre bene, ottimo segnale, ottima radio. Ok, fai pure, tanto sono qua. Adesso sei sceso e hai un Santiago 6 e la radio è radio 3. Ti sei abbassato, però ti capisco ugualmente bene. Sì, ma già arrivi qua. Che antenna stai usando in barra mobile? Ce l'hai con la base magnetica oppure attaccata alla capota? Capito, sì, perché io spesso faccio delle prove, perché io lavoro in aeroporto, quindi molte volte con Sassari riesco a parlarci, capito, dall'aeroporto, solo con i 5 watt del baracchino. Thank you. aspetta che c'è qualcun altro sotto, vi siete un po' sovramodulati. Avanti sul 10 chi voleva entrare. Adesso come radio va bene, anche come segnale sei salito a 8 di Santiago. Infatti stavo parlando con Fertilia, c'è un amico che sta modulando dalla macchina barra mobile e diciamo nella zona di Fertilia. Hai sentito Giovanni da Platamona, cambio? Siete sempre sovramodulati, eh? Aspetta un attimo Giovanni, andiamo avanti l'amico che ha Fertilia. Mi sa che non ti sente, perché infatti mi diceva con chi stavo parlando, infatti vi siete sovramodulati proprio perché lui non ha, però lui è in situazione un po' precaria, perché come zona dove lì a Platamona è aperta, come zona dovrebbe arrivare tranquillamente anche in quelle coordinate. Cioè è riattaccato, vero? Ok, sì, perché diciamo era più oscillante il segnale adesso, forse sei in movimento. Fermo. Ho capito, sì, allora si è staccato. Prima arrivavi più potente, diciamo, quando eri attaccato. Perché ti sento sempre bene anche di radio, però se c'è qualche modulazione qua in zona magari ti sovrasta un pochettino e quindi a volte mi scompari, capito? Come, però se non c'è nessuno io ti tiro fuori bene. Anni, tu non lo senti, no, l'amico che ha Fertilia? Capito, rimani così come sei adesso Giovanni, che sia come segnale che come radio è più comprensibile. Lui non lo senti, è in barra mobile al porticciolo di Fertilia, fermo. Sta uscendo, in questo momento stava uscendo con 5 watt. No, non ti sente da Platamona. Ripetimi il nominativo, l'amico di Fertilia. Ok, così me lo segno, ho capito, così più o meno. Ma tu sei di quelle coordinate là? Ah, bene mera, allora ho capito. E non c'è freddino adesso a pescare? Ho capito, sì. Beh, ce n'è di pesce. Sei arrivato da poco lì a pescare. Ho capito, perché adesso scende un po' la temperatura, Ci arrivi bene. Prima come eri attaccato arrivavi bello potente. Ovviamente con 5 watt diciamo io ti tiro fuori bene da qua. Vai a bomba. Santiago 8 qua mi arrivi, Ingombrante questo amplificatore. Ho capito? E anch'io qualcosina devo fare in macchina, perché con quello che ho non arrivo molto bene a Sassari, capito? Così già va bene, piccolino, dai, non è molto ingombrante. Sì, infatti conviene collegarlo quando la macchina è in movimento, capito? Se no te la butta giù, sì. Capito. Vabbè, io non ti voglio distogliere dalla pesca, se hai da buttare giù l'esca fai pure, tanto io sono qua in ascolto. Va bene, California, già ci sentiamo magari anche a Sassari, sicuramente. Ecco. Tanti. Ecco, ciao Carlo, buonasera. Non so con chi stai parlando perché non lo sento. Ecco la sorsa. Ciao Franco, buonasera, sto parlando con California che si trova a Fertilia a pesca. Ah, ecco California. Non lo so se mi sente, ma io lo saluto. Ciao Franco, però io non attivo, non lo sento per niente. Mi sa che adesso c'ha da buttare l'esca, si deve essere spostato. Infatti, no, io lo sentivo bene, è proprio al porticciolo, fermo in macchina. Lo sentivo sia attaccato che scollegato, con soli 5 watt, lo tiravo fuori bene. Secondo cosa bene, quale porticciolo è? Porticciolo di Fertilia. Ah, sì. Diciamo che dovrebbe essere un punto aperto. Sentito, Franco? No, negativo. Salutato, Santiago 7-8 dice che gli arrivi. Ciao Franco, comunque dai, io non ti sento, mi dispiace. Pensavo che avessi qualcosa di più di mettere, di aggiungere per arrivare. Lui ti sente, lui sta pilotando con un'ottantina 100 watt, ha detto. Ma io non ho niente, eppure non ho RM, non c'ho niente. Avanti, riprendi, Carlo. Niente, mi facendo quattro chiacchiere, c'era anche Giovanni da Platamona, prova a vedere se ti sente. Giovanni, guarda se senti il collega da Sorso. Se non senti a me Giovanni, allora a me è messo male, vero Giovanni? Vabbè, lascia perdere tutte le altre puntini, se volevo dire messo male come stazione, diciamo, dai, comunque dai, va bene, stasera c'hai ancora un po' più di radio, c'hai. Il microfono sempre normale o amplificato? Va bene. Noi siamo vicini ed è per quello che ti sento bene, come sei qua, sei 9, quasi 9,5 qua da me. Vabbè, c'è un motivo di schioppo. Avanti Carlo. Giova, lascia tutto così com'è, perché così vai decisamente meglio. Qua Santiago 9 adesso e la radio diciamo è 4. Sì, va bene, dai. Se si farà anche lui una piccola sessione, a caso. Piano piano, all'inizio abbiamo qualche difficoltà tutti, capita che io avevo provato con un'antenna, quando ho ripreso andava bene per certi versi, poi male, adesso con questa vado bene e la lascio così. Capo, io quando ho ripreso là, ho riniziato, avevo un baracchino di quelli piccolini, che avevo 40 canali, che ho trovato in una cassetta dello scantinato, e poi ho visto c'era il cavo, c'era tutto in pratica, una base magnetica per la macchina, e ho iniziato con quella, con la base magnetica, l'ho messa sul tetto, l'ho lasciata così, ho visto che mi hanno sentito a sassari, allora ho detto, ma sopra mi sentivo, allora ho detto, beh, adesso facciamo qualcosa per migliorare. Sì, avanti. Franco, lo senti adesso, Franco, che sta pescando? Franco, California, avanti. Franco, lo senti, ho cambiato antenna adesso. Sì, sento che stai parlando, però c'è un rumore quando parli. Rumore? Ehi, ha un rumore, non lo senti, capo? Negativo, io adesso sento che Franco esce ancora più forte, Santiago 9 qua mi arriva, Santiago 9, radio 5, io lo sento molto bene, chiaro. Sì, adesso sento che parla, si alza un po' anche lo smitter, però quando parla lui c'è questo rumore, non so se dipende da lui oppure c'è qualcuno che interferisce. So, ha detto che ha cambiato anche antenna, mi confermi così, Franco? Ha detto che ha messo adesso la frusta nera da un metro, e quindi infatti io lo sento molto meglio adesso. Non riesco a capire, no? Un'altra prova, a vedere se ci sente da sorso. Niente, no, adesso non lo sento neanche io, Franco, magari sta pescando, dai, lasciamolo in pace. Dovrebbe essere un po' negativo, eh? Adesso Franco di sotto. Adesso già mi stai arrivando, ciao Franco. Ciao, buonasera, mi ascolti adesso, vediamo un po'. Avanti a fare il portetto e più, dai. Ehi, capo, fra, cosa se ne sei andato a pescare lì, te ne sei andato? E stavo qua, forse c'è un infettivo qua, dai. Ho mangiato a te, no, è su la frustare era un metro. Sempre buona quell'antenna, No, per un infettivo, prima stavo tornando alla pescata. Adesso ho cambiato a te, per il tuo posto lì, dai. Vabbè, mi ascolti. Aspetta. Ma ti ho detto, è strano, io non ascolto dalla macchina, invece, vabbè, diciamo che te ne sei andato a pescare lì, te ne sei andato, e il pesce di qua lo lascia ai sassarisi. Ma non ti perdono, perché qua lo lascia il diverso, ho trovato che fa il cane, questa è la è rimasta, anche se sono altre volte, appunto, non è il vostro. Ok, dai, vi faccio stare anche con la chiamata, dai. Buonasera a tutti, dai, già vedo più lungo. Ciao Gianni, buonasera, ti voglio bene ancora così, dai. Quando era un vecchio, sì. Carola, ma che tu arrivi perfetto qua? Deve essere in macchina, se sei vero che sei in macchina, sta arrivando benissimo. Mi sta facendo, sono in macchina, già che vedo più lungo, ci vediamo a te, ora. Ma cosa c'è, il lineare? Basta, sto pilotando il 250. Ah, ecco. Sta arrivando benissimo comunque, fra. Andare. E beh, cos'è pescato? Adesso niente, già, giusta. Boh. bisogna che ci sia io per pescare. Comunque buonasera a tutti, dai. Mi torno a Santiago. Ok, ciao Gianni, comunque buonasera, ben ascoltato. Oh Franco, guarda il tuo porticciolo, all'interno c'è il coso del vivaio, vieni a buccare la carrete. Ah, esatto. Vabbè ragazzi, che ti saluto. Ciao Gianni, ciao anche a Carlo e ciao anche a Franco, adesso con il sorso. Ciao, ci sentiamo, buona pescata e non rompere le reti. Fra, io una volta ho pescato una busta di bove. Una volta lì si pescava, parlavano con il lupo di Brescia. Ciao Franco, comunque dai, ce ne ascoltiamo le brutto. Adesso non c'è più niente da nessuna parte, ho già. Avevo le cozze sotto sale, perché vi faccio un po' di esca, così almeno ce l'ho a portata di mano, anche se di domenica magari non ne posso comprare, ce l'ho. E sono andato con queste cozze sotto sale, fra, a tiro l'uno li pigliavo, e la mano di vita ci avevo fatto il contratto del gruppo brindi, la vecchi mi, e ti lo piccavo io dai lì. Capita così, a volte quando c'è vicino pesca un bene e tu non li vedi mancuna. Vabbè, erano poche, non è che era pesce chissà cosa, però è la soddisfazione. Avanti! Oh Claudio, buonasera, scusa se non ti ho salutato prima. Ciao Gianni, buonasera, Carlo da questa parte. Capo a Carlo, vabbè, detto Claudio, scusa. vabbè, comunque, quella prima era una bella zona, dove c'era il Remito lì a Fertilia, era una bella zona per pescare. Lo credo. C'è anche Franco da Sorso, Franco, avanti. Ehi capo, c'è un altro oggi, l'avevo già sentito Carlo, c'è anche coso, c'è Giovanni, la porta mola, vado Giovanni. Chi era questo? Ma Giovanni, non lo senti dalla porta mola? Sì, mi sembrava troppo forte per essere lui. Ciao Giovanni, ben sentiti. Sì, ha voglia, ma ha migliorato alla grande. Cosa ci ha pensato Luca? L'antenna mi batta. Bene. No, già va bene, va bene. Ha migliorato al 200%. Se tu all'antenna gli aggiungi un po' di cavo per poi andare dentro. Ah, bene, ho capito. Beh, vabbè, ti trovi un angolino che non disturba nessuno. Beh, perché fuori è un bel problema, che periodo. Allora, sì, già. Lo trovo all'internato, ma ringiovanisce così almeno. Ringiovanisce col freddo, fra. Avanti, caro. vabbè, così se ne aggiunge un altro, dai Giova, se trasmetti così come stasera, come adesso, va bene, almeno ti capiamo e quando chiami ti sentiamo tranquillamente, ma sino a ieri facevamo fatica, Va bene, io sto trasmettendo dalla cucina perché anch'io vivo in un appartamento, non è che è una stanza da dedicare alle radio e niente, ho calato il cavo dietro, c'ho un terrazzino, ho fatto un foro e me lo sono messo praticamente a fine pensili, c'è una piccola bacheca che fa parte sempre della cucina e ho infilato lì la radio e l'alimentatore, capito, e sono in cucina. Ma non è che disturbo più di tanto, capito? Poi basta mettersi le cuffie e così non disturba, non c'è problema per questo. Lo so. Senza denaro si fa di nulla, Tra poco paghiamo anche l'aria che respiriamo. Vabbè. Ma basta un paio di cuffie anche di quelle di cucciare di zio, Mina, che diravi voi? Ho capito. Giovanni, va bene, piano piano poi ti allarghi, per adesso va bene così, mi dispiace che sei all'esterno perché un po' di freddo lo prendi in questi giorni. Va bene così. Capito, vino niente, ma birra a fiumi, Allora, andavè. E l'antenna si dovrebbe arrivare fra qualche giorno, confermi Giova. Lì va bene, se la piaffi bene, mettiti un palo di quelli tubo d'acqua, di quelli alti, per uscire fuori da quel capannone che metto Luca che hai un capannone da fare. Ecco, ma capannone è tuo? Va bene, avanti fra. Aspetta, poi se ci metti l'attendo dove vuoi girare la cambiare la musica? In manina? Certo che cambia, se metti l'attendo una verticale, cosa stai prendendo? Non ho capito. Meno, la ciclotabile. Sì, c'è di buono con l'antenna, ce l'hanno i parecchi. Ehi, cazzo. Lei sia una migliore degli antenni, ma di buono è una buona antenna, una ciclotabile anche. Quindi è già. Proporzione, prezzo, qualità va benissimo, perché con 60 euro non compare Giuda. Quella antenna lì ce l'ha Franco California, chiedi da lui come va. nessuno è nato imparato, tutti hanno imparato, quindi anche tu hai tutta la possibilità di imparare, se c'hai la passione impari, non c'è problema. Avanti, Carlo. Carlo sei allontanato. E come lavoro da ragazzi? Quando inizi a lavorare cerchi di imparare un mestiere, poi te lo tieni. Così è questo. Da piccolo, se c'è la passione, questa qua poi ti viene normale. Perché quella vita lì l'ho fatta io all'inizio e poi quando lavoravo la tempi era così lo stesso, entravo alle 4 di mattina e tornavo alle 9 e mezza 10 di sera. Lo so. Non è vita, non hai diciamo altri scopi, altri interessi, perché non puoi avere il tempo per fare le altre cose. Ma sta parlando lontano dal microfono, avvicinati il microfono. Perché forse è salito il QRM e la voce sta abbassata. Lo so, è un lavoraccio, già lo so, perché io prima ero con l'Atteni, facevo nuvolo, in continente non andavo, però facevamo la zona di nuvolo, Cagliari, Olbia, tutta la zona della Costa Smeralda, insomma. Noi portavamo di tutto, i motori, surf, grandi bussoli, dalla netta. Con l'ottame, sì, ma con l'ottame grosso, anche barattoli di vernici, tutte queste cose qua, bobine dell'Enel. Cioè con l'ottame, quello lì era roba grossa, quando prendevi le bobine dell'Enel bisognava fare un bene. Come si chiamava il nominativo questo Gianni Luna? Che non mi ricordo il cognome, dai, non me lo ricordo. Come? Ah, il gippone, sì, la voglia te lo con. Ecco, avanti, Franco. Ecco, un mestiere che non mi è mai piaciuto visto già. Quando li vedevo io ricaricavo questo. Ma sempre correndo, stavo sempre correndo. E non andava nulla dove già stava arrivato. Parla di mancanti già. Lo so. Lavori che poi ti occupano tutta la giornata, capito? Perché a parte che allora noi a volte tornavamo la sera e dovevamo caricare per l'indomani, capito? Quando eravamo, e la sera tornavi e per l'indomani dovevi caricare. Io mi ricordo che all'inizio